bello che c'è la Roma, è bello che c'è la Lazio e aspettiamo la Juventus. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il giorno di festa per noi può cascare qualunque giorno della settimana, non solo la domenica. È quando viene Pierluigi Pardo. Siamo al top. Giorgio De Luca c'è sempre. Lavora come un matto, strautore, così. Primo napoletano svizzero della storia del mondo. Napoletano di zucchero. De Luca! Poi c'è Gianmarco Ferronato. Che invece è il primo svizzero napoletano. No. Di dov'è Ferronato? Di dov'è Ferronato? È lombardo. Lombardo. Italo-argentino. Pazza. Sì. Quindi la Juventus abbiamo scoperto che è la squadra più attapirata d'Europa. Ma si becca anche il tapiro quello vero. Buffon, che fra l'altro forse è quello che lo merita di meno, diciamo. Ma è totalmente quello che lo merita, infatti. Secondo me l'ha dato a quello che lo meritava di meno, se no rischiava di prendere un pugno in faccia, forse. Come l'ha preso il tapiro Buffon? Con le mani, di tutto, direi penso tu. Penso che in questo momento, visto che la vita familiare di coppia va molto bene, c'è da cercare di risistemare quella lavorativa. E per avere il sorriso come volevi tu, bisogna ricominciare a vincere. Però non si può vincere con il sorriso. Questa è una piccola differenza. Perché bisogna stringere i denti. Bravo. E anche qualcos'altro. Bravo. Per dare il meglio di se stessi. Beh, enorme classe. Grande metafora, grande metafora, sempre valida. Tutte le cose da stringere. 800 24 00 24, sempre per i detrattori di Allegri, per chi sta con Allegri, per chi vede la Juve una schifezza, per chi vede la Juve una squadra in costruzione, quindi l'inizio di un nuovo ciclo e non il termine di quello precedente. Assolutamente. Intanto stanno parlando tutti gli ex protagonisti della Juventus. C'è Tevez che dall'Argentina dice: la Juventus mi fa stare male, ma io avevo dato tutto. C'è Llorente che dice: mi dispiace molto, ma io già lo sapevo che sarebbe andata a finire così. E quindi c'è tutta questa fila di ex, così come lunghissima è la fila delle vedove di questi ex, che continua ad allungarsi. La Roma invece, visto che sono i due giorni di Champions, Juventus domani con il Siviglia, e attenzione perché sarà una partita importante da non sbagliare, da vincere possibilmente, ma anche e soprattutto una partita nella quale dare segnali, non credi Pierluigi? Assolutamente, è una partita fondamentale per mille motivi, il principale la Champions, insomma sappiamo ha mille implicazioni importantissime sul futuro della stagione, però credo che oltre la Champions c'è di più, come cantava Gio Squillo. Anche Evra ha cantato una cosa del genere, cioè, abbiamo sentito ieri, la Champions è un sogno, vabbè sta lì e noi ci proviamo, ma viviamo in una dimensione onirica per quanto riguarda la Champions. Il nostro pane quotidiano al momento durissimo è quello del campionato. Sì, è vero anche che le squadre, è una dinamica abbastanza comune, abbastanza frequente di certe squadre, quella di essere quando hanno magari speso tanto, quando sono un po' spremute, quando non sono ancora pronte, riuscire a fare delle grandi reazioni nelle grandi partite e faticare invece un po' di più con la normalità. E potrebbe anche essere il caso della Juve, forse non è un caso che la migliore partita della Juve sia arrivata a Manchester in Champions League. Sono molto curioso ovviamente di raccontarla questa partita di domani sera, può essere un'occasione per recuperare. Però ecco, quello che è successo già dalla prima giornata, hai visto, no? La Juve reagisce a Manchester, vince bene, gioca la migliore partita della stagione, tartaglia Genova pur vincendo, e poi si va a impantanare ancora fra Frosinone e Napoli, quindi vuol dire che forse come quel famoso Milan di Ancelotti del 2007, che faticava tantissimo in campionato ma che riuscì a vincere la Coppa, poi magari è un'altra dimensione, no? La differenza è che in quegli anni il Milan dichiarava, a beneficio di tutti gli abbonati che si ostinavano a comprare gli abbonamenti, a noi del campionato non ci importa nulla. Infatti verso fine ottobre arrivava la regina 0-0 a San Siro e il Milan era già a 8-9 punti dalla vetta. Questo però, era il refrain, era un po' le scorciatoie, un po' la volpe e l'uva, secondo me. Cioè, secondo me il Milan, però insomma era anche una forma di priorità di Caceres ha distrutto la Ferrari. Sì, si è incartato, tasso alcolico fuori norma. Una bravata alla Vidal, visto che si sente la mancanza di Vidal, almeno sentiamo sentiamo meno la mancanza delle sue stupidaggini. Comunque, poi comunque, scusate, c'è questa cosa che mi sconvolge, perché quale? Ieri sera c'era Max Biaggi ospite a Tikitaka e stamattina ha twittato che è finito l'amore con Eleonora Pedron. Ora non che no, non te l'ha detto. No, ma non è che non me l'ha detto, mi spiace, ho visto ieri sera per la terza volta della mia vita, mi fa un po' effetto, insomma. Beh, ho anche fatto al momento il tiki trono fra la Falchi e Naomi Campbell, e dice devo tornare a casa. Vabbè, non casa. È che è finito ieri sera dopo Tiki Taka. No, ecco, dai, spero non ci sia stato, ma mi auguro e penso che non. Anche Tiki Taka adesso rovina matrimoni. No. Insomma, andando in onda quell'ora, magari anche sì. Però non è questo il punto. No, volevo passare alla Roma. Volevo passare alla Roma per sentire una Roma che sarà ridotta ai minimi termini oggi in Bielorussia. Proprio sì. Poca roba. Non si potrà dire Garcia ha fatto turnover. No, mette in campo quelli che ha. Sentiamo lui, l'allenatore, e Nainggolan alla vigilia del Bate Borisov. Ma per noi non ci cambia nulla sul fatto che anche con delle assenze arriviamo qua con ambizioni e noi vogliamo passare il turno. Sappiamo che ogni partita, come è stata la prima contro il Barcellona, ogni partita la dobbiamo giocare al massimo per fare un risultato positivo. Piano piano sto tornando al 100%. E niente, io sono un giocatore che comunque vuole giocare sempre, quindi penso di non pensare mai alla stanchezza. Poi ovviamente essendo un essere umano la stanchezza a volte c'è, ma sei un robot tu, no? Però per me l'importante è dare sempre il massimo. Tutti convocati. Convocati. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Credo fra 15 giorni. Sì, per chiudere definitivamente. Speriamo di sì, speriamo di sì, perché l'operazione non è soltanto quella che è apparsa oggi, è un'operazione molto ma molto più ardita, molto più ardita di quella che appare. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. La firma è solo una formalità? Credo di sì a questo punto, perché Mr. B si sta comportando con molta serietà, devo dire che mi piace molto anche come persona e quindi è un partner molto gradito con cui penso si potrà fare un ottimo lavoro per il Milan. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Magari si può pensare per il suo compleanno al closing, alla firma con Mr. B. No, è più avanti, due giorni più avanti, e poi io ormai ho un'età alla quale non si fa più festa per il proprio compleanno. Oggi compleanno di Berlusconi, no? Sì. Due giorni più 29 avanti. Settembre, potremmo anche sentire poi 29 settembre. No, musiche melodiche, grande brano. Strappa lacrime, strappa cuore, secondo me è una scelta Giovanni strappa Venturi tutto. Che è di Trento. Allora, per tenervi in attesa, per aumentare la suspense, che è già molta, che è già di per sé, su questo closing, su questo closing o non closing, io prima di parlare col professor Belinazzo vi faccio sentire Gaetano da Roma. Guarda un po', vai Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ciao e grazie di avermi convocato. Ciao a te. No, io ci tenevo anch'io a parlare con Marco Belinazzo. Qua. È qui, cambio tweet. Bene. Allora vuoi parlare? Marco, sei lì, no? Ci sei? Sono qui, sto andando alla festa di Berlusconi stasera. Sto andando alla festa di Berlusconi, sì. E sto preparando un smoking d'ordinanza. Di già, sì. Beh, bisogna prepararsi con certo 14, anticipo. 19, 59 secondi. Ma sai, bisogna presentarsi come, come richiede il Galateo. Il Galateo, sì. E non ci sarà Mr. Dress code, dress code. Non ci sarà, è ufficiale? Non ci sarà Mr. B, che però è in arrivo in Italia, dovrebbe arrivare domani. Sì. C'è già un volo prenotato. Ovviamente se non lo prenderà è un altro discorso, ma dovrebbe arrivare domani con l'obiettivo di spiegare a Silvio Berlusconi le ragioni per cui occorrerà un altro po' di tempo per arrivare al closing. Così partiamo subito con la notizia, poi facciamo i commenti. Sì. Gaetano, cosa voleva dire a Venerazzo? Volevo dire a Marco, semplicemente, spesso ci siamo duitati su questo argomento. Io sono stato sempre molto scettico su questa operazione da tifosissimo del Milan. Me ne dispiace pure di essere scettico, ma avendo un po' studiato economia, per me è un'operazione che dal punto di vista della struttura economica non può stare in piedi. Si continua a rimandare, oggi magari sarebbe pure più facile dirlo che è un po' un'operazione strampalata, ma mi chiedo com'è possibile, stimando moltissimo Marco Bellinazzo, che lui non si sia posto delle domande su questa operazione che è fuori da qualsiasi DCS d'azienda, e lui sa a cosa mi riferisco, è fuori da qualsiasi valutazione realistica del mio adorato Milan. Quindi come dire, mi farebbe piacere se lui potesse. Ma per le cifre? Per le cifre. Sì, Marco, ci siamo spessi confrontati, come mi permetto di darti il tuo. Sì, io sono per Luigi, comunque parlo, ma comunque per le cifre, Bellinazzo, illuminaci. Io dubbi me ne sono posti, ovviamente li ho posti agli interlocutori nel limite in cui è possibile porli in questa fase, insomma. È molto complesso, insomma, non possiamo entrare troppo nel tecnico in una radio. Detto questo, la valutazione del Milan di 480 milioni è oggettivamente alta, su questo insomma non c'è bisogno di essere economisti per capirli. C'è anche da dire che per esempio una squadra come il Bayern Monaco ha avuto una valutazione analoga a quella del Milan, leggermente più alta. Il Bayern Monaco ha uno stadio e fa utili, ovviamente. Il Milan d'altro canto ha un blasone ancora importante nel sud-est asiatico, per cui la grande scommessa di questa operazione era quella di riportare il Milan rapidamente ai vertici del calcio europeo, restituire un po' di brillantezza a questo blasone, andare in borsa, quotare diciamo una parte, un pacchetto di Mr. B e dei suoi investitori, un pacchetto di Silvio Berlusconi, in modo tale che alla fine con un 40% la cordata del Mr. B potesse avere la maggioranza del Milan. Quindi diciamo il controllo e l'acquisto della proprietà del Milan non sarebbe avvenuto sforzando di fatto un miliardo, sì, ma praticamente la metà. Queste sono state le spiegazioni che ci sono state date. Chiaramente non esauriscono tutti i dubbi, a partire dal fatto che bisogna capire chi sono questi investitori, anche perché uno dei problemi che si è verificato in queste settimane è proprio legato a questi investitori. E sì, qui centriamo un altro punto, sì, ma non per far piacere diciamo a Marco Bellinazzo o ai tifosi del Milan che vogliono sapere poi chi sarà il proprietario, ma perché dopo il caso Parma c'è una norma che è stata inserita tra le norme federali che impone a chiunque compri il 10% della società di presentare una sorta di fedina penale o comunque di venire allo scoperto, perché sì, è giusto che le società appartengano a soggetti, come dire, riconosciuti e riconoscibili e non a misteriosi fondi. Sì. Le domande sono state poste, aspettiamo una risposta, così come l'aspetta Fininvest. Uno dei problemi che si è creato in queste settimane è stato quello che alcuni degli investitori che si erano raccolti intorno a Mr. B sono stati spaventati in qualche modo dal clima che si è creato intorno a questa operazione in Italia. Le ripetute inchieste giornalistiche su ipotesi di riciclaggio, interventi paventati di procura, hanno indotto qualcuno a tirarsi indietro, altri stanno subentrando, e quindi questo è stato uno dei problemi, così come un altro dei problemi è stato quello di andare a definire tutta la procedura in vista della quotazione in borsa e in vista di quello che poi dovrebbe essere il definitivo assetto azionario, sì, della società, con una diciamo predominanza di nuovi investitori rispetto alla vecchia, sì, proprietà. Ma la storia dello stadio non c'entra nulla in questo ritardo, no? È solo una questione di investitori che, perché stiamo, se no chiamo Barisoni, stiamo diventando focus economia. Esatto. No, la storia, allora, dello stadio, guarda, non c'entra niente. C'entra nei limiti in cui Mr. B voleva San Siro. Voleva San Siro e gli danno San Siro e Portello si fa più. Quindi quello non c'entra. È solo una questione di investitori che si sono chiamati fuori, spaventati da inchieste italiane, dal clima italiano, e di altri che intervengono, e quindi per questo cambio di nome, diciamo così, servirebbe un altro mese. Il senso è questo, ma io ti chiedo anche, ma secondo te si fa o non si fa l'operazione? A rischio o no? Qua, la palla di vetro. Se a rischio l'operazione. Io questa mattina, diciamo, ho sentito entrambe le parti ai massimi livelli e c'è ancora grandissimo ottimismo e soprattutto c'è la volontà di chiudere l'operazione. Molto, moltissimo dipenderà da quali spiegazioni darà Mr. B sui ritardi del closing. Quelle che ho appena raccolto e vi ho raccontato, insomma, sono quelle che appunto sono trapelate, come diceva Berlusconi in quell'intervista che avete riportato. L'operazione è molto più ardita di come appaia. Chiaramente noi facciamo grande fatica in questo periodo a raccontare questa trattativa, certo, perché ci sono oggettivamente aspetti complessi e trapelano notizie di tutti i tipi, alcune del tutto, insomma, mi fanno sorridere. L'ascoltatore prima, insomma, giustamente faceva riferimento magari al fatto che nel business plan ci sarebbe un incremento di 300 milioni di ricavi dall'Asia e dall'area commerciale, poi Berlusconi ha parlato di 100, quello può essere 100 milioni un obiettivo, ma nel lungo termine, certamente non nel breve termine, a patto che si torni a vincere. Voglio dire, ci sono tanti aspetti complicati e il belam che si sta facendo di informazioni tra radio, TV, blog, siti, insomma, non aiuta chiaramente i tifosi a capire. Noi cerchiamo di dare, anche attraverso appunto tutti i convocati, delle indicazioni che siano le più precise possibili, però chiaramente gli ascoltatori devono sapere, insomma, che noi siamo dei cronisti, certo, raccogliamo delle informazioni, le verifichiamo, ma non facciamo le trattative. Sì, questo, per fortuna. Marco, grazie. Grazie a voi e a presto. Ciao. Vabbè. Abbiamo capito. Sì, abbiamo capito che c'è ottimismo, che ma non c'è ancora molto da capire, nel senso che di certezza ce ne sono poche. E vedremo andrà a finire questa storia, che francamente, insomma, si sta prolungando un po' tanto no? Sì. Rispetto a quello anche che quella sembrava. Tra Moratti e Toiro, perché sia stato, non è che sia così, anche questo voglio dire, cioè, non è che sia semplice fare vendere un'azienda, di questa dimensione e con questi risvolti, quindi potrebbe essere ancora normale, potrebbe, è chiaro che, insomma, poi nei prossimi giorni si vedrà se ci sarà questo tipo di discorso, però mi fido delle dichiarazioni di Berinazzo, no? Nel momento nel quale dice che tutte e due le parti hanno voglia di chiudere. Allora ci fermiamo per la borsa, subito dopo ci sarà il signor Stellone. Signor Stellone, che ieri ha vinto la sua prima partita in Serie A alla guida del Frosinone. Sorriso amaro per lui, spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. Che dire, arrieccici. Convocati. E viva il Frosinone, la ciociaria, la ciociaria. Siamo andati in Serie A, siamo andati in Serie A. Pavlovic, molto sollecitato il suo mancino. Sciofani, la parata e poi Dionisi. Frosinone 1, Empoli 0. Della ripresa, la prima firma in Serie A in questo campionato di Federico Dionisi. Dionisi con il sinistro, la doppietta di Dionisi. Adesso il Frosinone è avanti di 2. Compilation del Frosinone. Sì, sto notando che c'è proprio una produzione discografica sul Frosinone straordinaria. No, devo dire, sono molto felice. Sì, sono stato alla festa del Frosinone il 31 maggio. Ho visto un entusiasmo autentico, che poi sarà simile a quello che c'è a Carpi. C'è stato a Sassuolo. Carpi oggi vediamo, licenziato. No, però voglio dirti, non è che paratina vuoi più bene a mio papà. Però, insomma, mi ha colpito molto la semplicità e la bellezza dei sentimenti di questa impresa. E poi, insomma, la favola continua, vero, professor Stellone? Buongiorno, come va? Roberto. Bene, ecco, bene, che vada. Quattro punti. Stai meglio di 4-5 giorni fa, tutto. Sì, decisamente. Vabbè, non ti chiedo qual è l'obiettivo. Parliamo di queste due imprese. Qual è stata la più difficile? Pareggiare a Torino o vincere in casa con l'Empoli? Ma due partite diverse, nel senso che con la Juve ha fatto per 95 minuti la partita della Juventus, ci siamo difesi, abbiamo sofferto, è stata una partita più di sacrificio, di attesa, e alla fine abbiamo creduto e siamo stati ripagati, insomma. Certo. Con l'Empoli una partita diversa, logicamente molta tensione, perché comunque uno scontro diretto, e visti i risultati della domenica avevamo questa possibilità di, in caso di vittoria, di salire la china, di lasciare l'ultimo posto, quindi secondo me il primo tempo eravamo un po' contratti, poi l'Empoli è partito molto forte e ci ha messo in difficoltà nella ripresa, forse anche dovuto a un calo fisico loro, non lo so, siamo riusciti a fare nostra partita, a stare più alti, a essere più aggressivi, e sono venuti questi due gol, poi l'espulsione ci ha aiutato a portare a casa la vittoria. Senti Roberto, io ho l'impressione che comunque quel gol a Torino, per come è arrivato, per il momento in cui è arrivato, sia qualcosa che possa dare un'elettricità tale, non ti dico da cambiare una stagione o da svoltare verso chissà dove, però quantomeno un'energia che ti permette di andare avanti per un po' di tempo. Sicuramente, era quello che c'era mancato prima della partita col Torino, perché comunque venivamo da buone prestazioni come contro il Bologna e in casa con la Roma, però non avevamo ottenuto punti, quindi quel punticino preso al 93esimo contro la Juventus in quello stadio sicuramente è falso molto a livello di entusiasmo, di morale. Ma secondo te Stellone ci dice che come ha visto la Juventus, o dice che non l'ha vista poi così male? Sì, chiediamoglielo. No, io non l'ho vista. Non l'hai vista proprio? Non l'hai vista, punto. No. Non l'ho vista così male, nel senso che comunque con noi hanno creato molto, molte occasioni, sono stati forse imprecisi, forse a volte non era velocissima la manovra e ci permetteva a noi di abbassarci e di chiuderci, però nonostante comunque noi fossimo in 11 dietro nella metà campo, comunque i varchi e le giocate le hanno trovate, sono stati contro di noi, secondo me sono stati un po' sfortunati, così come contro Udinese alla prima giornata di campionato che hanno perso, così come contro il Chievo. La partita con il Napoli non l'ho vista, no. Ho visto quella con la Roma, e con la Roma hanno secondo me meritato di perdere. Qual è la cosa che hai imparato, comunque, insomma, che ti ha sorpreso, oppure di queste prime sei giornate? Parlo di te e parlo della squadra, no? Si parla tante volte del salto di categoria, del fatto che è completamente un altro mondo stravincere il campionato di Serie B o giocare il campionato di Serie A. La cosa che ti rimane di queste prime sei giornate? No, che ci sono momenti della partita dove si soffre, ci sono momenti della partita dove magari tu prendi il campo, conquisti campo, ottieni più possesso palla, e quindi comunque le partite fino al 95esimo, questo in tutte le categorie, rimangono sempre in piedi. Nel senso, noi fino ad oggi sì, avevamo perso 4 partite nelle prime 4, però avevamo sempre dato la sensazione di rimanere in partita, nel senso di non spaccare, come si dice a Roma, nel senso prendere 2-3 gol e dopo diventa veramente dura contro squadre e avversari sicuramente con più qualità. Noi fino ad oggi siamo sempre stati quadrati, abbiamo perso di misura col Torino, così come col Bologna, e stesso discorso con la Roma. L'unica partita dove abbiamo perso meritatamente, secondo me, è stata con l'Atalanta, dove hanno vinto tutti i duelli, è stata veramente una partita sottotono. Per il resto tutte le altre gare le abbiamo interpretate bene. E con l'Empoli abbiamo fatto un secondo tempo ottimo, e la differenza tra la partita con l'Empoli e quella col Bologna è che a Bologna la palla non è entrata dentro, certo. E con l'Empoli è entrata dentro. Molti, voi siete saliti in Serie A braccetto con il Carpi, lasciami dire alla faccia di Lotito, ma lo dico io per inciso, e comunque siete stati visti da molti come ospiti di passaggio, eravate in fondo alla classifica, ora voi siete, guardiamo la classifica, un punto la Juventus, poi la Juventus che non dovrebbe essere lì, ma anche questa è un'altra storia. Al Carpi invece cambia allenatore, Castori da oggi non c'è più, è stato esonerato. Sì, fa effetto, no? Mi spiace, perché normale, dopo i risultati che ho ottenuto l'anno scorso, insomma, per il Carpi è stato qualcosa di storico, come per il Frosinone. Di solito quando non vengono i risultati si fa prima a cambiare l'allenatore piuttosto che 20 giocatori, anche perché il mercato è chiuso, si ha questa possibilità. Mi spiace per Castori, e sono sicuro si, rip- riposerà un pochettino e sta trama si partirà alla grande. Posso dire, posso aggiungere che veramente mi sembra una roba assurda, una roba assurda, perché nel calcio non c'è molta logica, non c'è, a volte quando non vengono risultati è bene, bene, ragazzi, anche dare, sì, dare. Loro hanno però perso, scusa, con Inter, allora, Sampdoria, Roma, allora, e Fiorentina, eh. Di che non ci credi, allora, di che non ci credi che adesso c'è un altro direttore sportivo che legittimamente ha magari altri allenatori che stima di più e nei quali crede di più, ma diciamo cacciarlo adesso dopo queste prime sei partite, ma con due, ripeto, punti Inter, con Sampdoria, Roma e Fiorentina, no, ma aggiungo, aggiungo anche che ha fatto, insomma, ha recriminato il Carpi, secondo me anche a ragione, in un paio di partite comunque, insomma, ci sono state lamentele molto pesanti contro l'Inter e contro la Fiorentina, sì. Quindi diciamo che poteva esserci un punto in più in classifica. Non mi sembra una situazione così disperata cacciare Castori dopo sei giornate. Io ho fatto anche, ho visto Roma Carpi, l'ho commentata, insomma, mi sembra francamente che sia stata una brutta partita, per carità, ma francamente un esonero dopo Roma Carpi per me non ha nessun significato. No, poi hanno cambiato molto, cioè sono rimasti, penso, due o tre giocatori del gruppo che l'anno scorso ha fatto con l'annata fantastica, quindi anche molti stranieri, quindi magari ci voleva un po' più di tempo, insomma, Castori, per amalgamare il gruppo, perché non è semplice. Io nel mio piccolo, nel senso, abbiamo cambiato molto meno rispetto al Carpi, però prima di assimilare certe situazioni ce ne vuole di tempo, quindi certo. Non gli è stato dato tempo, forse perché, come avete detto voi, non c'era questa stima, questa fiducia da parte del direttore. Sì, la sensazione è questa, no? Che non si siano presi Sogliano e Castori e si è arrivati al minimo sindacale per l'esonero. Però insomma tutta la solidarietà del caso, secondo me, va a Castori, perché insomma tu fai un'impresa come quella e vieni mandato via dopo sei giornate così, ma a me non piace. Poi no, ognuno fa quello che vuole, perché dai, i soldi non sono i miei, Carpi fa quello che gli pare, però mi sembra veramente una cosa brutta. Senti Roberto, tu sei d'accordo con Pardo quando dice che Napoli lo eccita, lo intriga? Napoli lo eccita, se basta. Eccita, lo intriga. Ma è Napoli. Napoli. No, mi incuriosisce molto, mi dà l'idea di essere potenzialmente. Lo accosta la parola scudetto? Sì, si può, cioè, accostare la parola scudetto. Mi ispira altissima classifica. Che dici? Ma gioca bene. Napoli, insomma, viene da di là della battuta d'arresto dopo le due vittorie, quella in Europa League e in campionato con la Lazio, con la Juve, non l'ho seguita, non l'ho vista, però hanno fatto un'ottima gara, ho letto. E da scudetto, secondo me, no, nel senso che vedo squadre sulla carta, poi può succedere di tutto, però, tipo? Ma secondo me la Roma si riprenderà, e la Fiorentina sta facendo bene, e l'Inter è una squadra che, nonostante la battuta d'arresto clamorosa con la Fiorentina, sicuramente ha un organico e un allenatore e la piazza, insomma, la tifoseria che lotteranno fino alla fine per la vittoria. Roma, Fiorentina, Inter. Quindi vedi più la Fiorentina del Napoli in questa prospettiva? In questo momento sì, Beh, mica male, eh. E invece voi la corsa su chi la fate? Può sembrare antipatico dirlo, insomma. No, c'è quel gruppetto di squadre che tranne la Juve che stanno lì, insomma, fino, diciamo, dal Palermo in giù. Ci mettiamo il Genoa, l'Udinese, il Verona, Bologna, Carpi, Frosinone, leviamo la Juve, che la Juve adesso ritornerà a fare risultati, e siamo quel gruppetto là che ce la giocheremo fino alla fine, spero. Che poi la vostra storia dell'anno scorso è stata una storia di magia che è arrivata a un certo punto, no? Non è stata una stagione, è da un certo punto in poi che siete decollati. Sì, noi abbiamo fatto le ultime, levando l'ultima persa a Vicenza, che ormai avevamo ottenuto la vittoria, prima di quella le ultime otto abbiamo fatto sei vittorie e due pareggi, insomma. Noi eravamo quinti in classifica a sei punti dal Bologna, che era secondo. Ma è un fatto di programmazione, di preparazione? Ma secondo me siamo arrivati un po' più freschi rispetto alle altre squadre, e questo mi prendo un grande merito io, perché ho fatto spesso il turnover. No, scherzo. No, prendilo. Piglialo, no, che male, no, perché a volte quando si fa il turnover, leggevo oggi un'accusa su un giornale a Mancini, era stato accusato di non aver fatto il turnover. E ha perso con la Fiorentina, sì. La Roma, certo. La partita col Sassuolo ha pareggiato perché ha fatto troppo turnover, ma è chiaro. Certo. Poi sappiamo benissimo che il risultato è quello che decide tutto, quindi noi l'anno scorso, come me, la nostra qualità è stata quella di di non arrivare alla fine del, diciamo, campionato, di arrivare un po' più freschi rispetto agli altri, forse perché abbiamo dosato l'energia, nel senso non c'è stato nessun giocatore che ha fatto più di 35 partite, insomma, quindi magari nell'ultimo periodo avevamo qualche cosa in più rispetto agli altri. Grazie Roberto, grazie Roberto, bocca al lupo. Grazie. Ciao. Presto al Matusa. Al signor Matusa. Ridecco. 800 24 00 24 14 20, 46 traffico. Poi Nicolò, Vitaliano, Emiliano, altri ascoltatori. 800 24 00 24. Però il pubblico è un po' moscetto. Tutti convocati. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile, vi presenta convocati. Tutti convocati oggi con Pierluigi Pardi in studio. Festa, dicevo prima. Tombola. Sì, tombola. Nicolò, provincia di Trapani, buongiorno. Buongiorno, salve gente. Volevo intervenire con l'occasione di questo episodio di Caceres, sì, della Juve, ricollegandomi al mio intervento di quando Balotelli aveva avuto ritirata la patente per superato un limite di velocità e lei era intervenuto, io ho polemizzato un po' dicendo che stavate esagerando su Balotelli in quanto qualsiasi cosa faccia, anche non so, una banalità, i giornalisti italiani gli date addosso senza aiutarlo nella crescita. Io per la verità non tantissimo, posso finire, storicamente gente il più balotelliano i giornalisti italiani, comunque mi fa finire, sì, gente. La faccio finire, ma volentieri. E difatti è la conferma di quello che sostengo io, che sostenevo io in quell'intervento. Oggi di Caceres avete fatto un intervento di credo 3 secondi parlando di uno che forse ha il tasso alcolemico elevato, è andato a sbattere, poteva rischiare la vita lui ed altri, quindi secondo me l'avete trattato con molta leggerezza, no, però a confronto di come trattate le cose contro Balotelli. No, ma non è questione di contro, Balotelli viene trattato più degli altri nel bene e nel male, cioè Balotelli fa più notizia di Caceres, più notizia, i 44 passaggi di Udinese-Milan o il fatto che l'altro giorno sia andato a dividere Bacca a un certo punto, queste cose qui, o famose dichiarazioni di Galliani su questo primo mese nel quale, io citavo l'altro giorno un nostro bordocampista che giustamente, non è un'accusa che gli faccio, diceva Balotelli si sta scaldando tranquillamente, come se fosse una notizia il fatto che dovesse mandare tutti senza fare le capriole. Quindi, come al solito, è ovvio che faccia più notizia di altri, e nello specifico oggi c'è la storia di Caceres, lo ripetiamo e sono d'accordo con lei, cioè se la cosa fosse capita da Balotelli se ne parlerebbe molto molto di più, ci sarebbe già il tapino pronto e è ovvio, questo lo sappiamo, però non credo che sia una critica preconcetta solo negativa, credo che sia un'attenzione mediatica per questo giocatore enorme, che fra l'altro, voglio dire, non è soltanto italiana, perché Balotelli è uno che è finito sulla copertina del Time, quindi di questo stiamo parlando ai tempi d'oro. Ovviamente è un personaggio, ieri c'era un'intervista a Tiki Taka, la Camusso, che diceva che pur non essendo un appassionato di calcio dice che Balotelli diciamo la intriga come storia per i risvolti sociali, quindi è un campo enorme di aspetti e di situazioni, e quindi se ne parla tanto. Poi nel bene e nel male, che questo vale pure al contrario, cioè appunto, quello vale che fa positivo, quello che fa positivo, vale di positivo a Balotelli viene sottolineato in rosso 100 volte, magari la punizione di Balotelli con l'Udinese l'abbiamo vista mille volte, la punizione di uno che gioca nel Chievo, nell'Atalanta, un gol di Caceres lo vediamo due, finita lì, no? Quindi mi sembra questa la distinzione da fare. Però è vero, ha ragione, oggi nello specifico è vero, se l'avesse fatto Balotelli lo schianto in macchina ma se ne sarebbe parlato di più. Vitaliano, Pesaro, buongiorno. Pronto? Dica. Ciao gente. Ciao. Io anche Pardo. Ciao. Io volevo tranquillizzare tutto il popolo juventino, io sono juventino da 60 anni, ne tutto ho visto a posto? Di crude. Ne ho visti tutti i colori. Ne ho visti tutti i colori, la Juve ritornerà a vincere, farà un filotto di partite, tutti diranno è ritornata la grande Juve, questo sono sicuro che ritornerà. Però volevo uscire un momentino dal provincialismo. basta, discutete 30, 35, 40, basta, dobbiamo cominciare a vincere in Europa, usciamo dal provincialismo. Se la Juve fa bene in Europa, il campionato, io da juventino di vecchia data me ne fotto. È vero che se non giochi bene in campionato farai fatica anche dall'altra parte, però avere la testa concentrata sulle partite di Coppa dei Campioni. Ho capito, però c'è la differenza che passa tra andare normalmente al lavoro e prendere dei bei soldi e andare al casinò, no? Tra campionato e coppa. C'è qualcosa di sicuro e qualcosa di totalmente aleatorio. Voglio vincere la Champions quest'anno. Esatto. Guarda, facciamo così, no? Obiettivo Champions. Lascio il campionato, vinco la Champions. Non è che funzioni proprio così. No, anzi, anche perché sbagli un quarto d'ora, esatto, e la Champions sei fuori. Sei fuori. Ciao. Detto questo, la Juve l'anno scorso ha fatto una stagione europea incredibile, esemplare, assoluta. Quindi, secondo me, poi alla fine c'è veramente poco da rimproverare. Anzi, è stato assieme al Napoli e alla Fiorentina in Europa League la prima traccia, la prima testimonianza che qualcosa sta cambiando in positivo nel calcio italiano, nel senso che siamo tornati competitivi in Europa. Sul resto sono d'accordo, cioè penso che la Juve ovviamente migliorerà la sua posizione in classifica. Non so dirti onestamente se quest'anno avrà la forza per tornare a combattere per il titolo, comincio a pensare di no, però sicuramente migliorerà la sua posizione e credo che la sfida sia riuscire a entrare fra le prime tre. Quello che il Milan ha fatto per anni, snobbare dichiaratamente il campionato, il Milan lo faceva dichiaratamente e dire tanto noi siamo la squadra che una squadra con il DNA europeo. Sì, secondo me appunto ci sono delle squadre, soprattutto le squadre un po' stanche, un po' anziane, a fine corsa, con molta esperienza, come poteva essere quel Milan lì, che possono avere questo tipo di tendenza a giocare hanno grande esperienza, alcune selezionate, sono molto partite, abituate a certe partite grande adrenalina, faticano magari di più quando devono giocare con l'Empoli. Su questo si era costruito un'immagine che faceva anche paura, solo la maglietta del Milan imputeva un po' di timore. Poi arriva un momento che il Milan non ha più vinto neanche in Europa, questo va detto, però sicuramente questo DNA europeo il Milan un po' ce l'ha avuto e ci ha anche giustamente giocato. Allora ci fermiamo per il GR, poi torniamo. Il Noso, vecchio amico, il football, le fasce laterali, Marco Nosotti con le ultimissime, ma ora intanto abbiamo il GR, la borsa e il traffico, a voi. Saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si ricomincia. Convocati. Allora c'è Roberto da Bergamo, caro Veronese Pardo, che letteralmente tuona o impone o ordina. Dica. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti esclamativi. Voglio Leo Turrini. Agli ordini si obbedisce. Certo. Ciao Leo. Pronto, volevo dirvi una cosa subito che sostituisce le informazioni sul traffico. Sì, dica. Posso dire? Dica. Dica. Allora, questa mattina mia figlia si è laureata in medicina, 110 lode. Complimenti. E voi direte, ma noi che ce frega? No, dovete aspettare, siccome c'è Pardo. Qual era la tesi? L'oggetto della tesi? Qual era? Come combattere l'insonnia, due punti, una puntata di Tiki Taka. Voglio dirti, Pardo, te sto a portare l'acqua con le orecchie, stavo a scherzare, Non ti arrabbiare, Pardo. Ma figurati. È una festa di famiglia, ci sono tutti i parenti che ti adorano e tutti mi dicono, ma veramente conosci Pardo e Genta? E io rispondo, sì, li conosco. E dico, ma come sono dal vivo? E io ho detto, Pardo è come Vettel, è un fuoriclasse assoluto, c'è il colpo di genio. Per dire, stasera c'è Bate Borisov, Roma, e tutti i ragazzi a tavola, i coetanei della laureata, dicevano: ma Pardo sarà là in Bielorussia? Io ho risposto in finlandese, ho detto: e sti cazzi, come avrebbe detto Genta, che è finlandese come Raikkonen, hai capito? Comunque, meraviglioso. Pardo domani è a Torino, Torino domani. Altra partita, Juventus stasera, eccezionale, eccezionale da Borisov. Sì, vabbè, ma chi fa stasera? Bate Borisov, Roma, Piccinini. L'Italia, sì, tutta l'Italia si blocca per questa partita. Che stiamo a fare, Pardo? Che fai lì con Genta? Sei all'Expo, io non lo so. No, a proposito, traffico, andare all'Expo sulla Pero Cormano, voi direte: chi sta rallentando? Ma sei carico a pallettoni, ma sei meglio del solito. È una figlia che si laurea a 110 nodi. Complimenti. E quando ricapita con una tesi su Tikitaka, poi voglio dire. Straordinario. Ma comunque sulla Pero Cormano c'è questo traffico così, non ci si riesce a muovere. Perché detta, come va detta, insomma, non è che la Ferrari in Giappone sia poi andata velocissima. Diciamolo, abbiamo detto tra le righe, non male, terzi e quarti, però insomma un po' come una famosa canzone che Pardo potrebbe far suonare a Tikitaka, perché lui ama la musica, Umberto Tozzi, Dimmi di no, che il primo verso era: e domandami come va, sono felice solo a metà, come uno che ha preso 6. Straordinario. Ferrari a Suzuka ha preso 6. Il lirismo del signor Turrini. Pardo, ti sto a portare l'acqua con le orecchie, tu sei un gigante, capito Pardo? Io quando parlo con te mi commuovo, perché posso dire a tutti i familiari, dico: ma lo conosco, ha messo anche gente a viva questa, è vero caro Carlo? Sì, no? Sicuro. Tu quando sei con i tuoi familiari dici: ma quello mi chiedono solo, Pardo, ma mi chiedono solo di Pardo, ormai io non conto più nulla, se no, mi dai i soldi per andare a mangiare al ristorante, l'argomento diciamo. È fatto. Dobbiamo fare una cosa, ma quell'altra persona di nome insieme, no? Non so, i Turrini, miscela esplosiva, no? Ma devo spiegare tutto, no? Chi c'è? Adesso arriva il noso. No, però prima. C'è un momento di Radio Modena. Però volete un'informazione riservata? Dica. Voi sapete che Nosotti lavora a Sky, no? Sì. E talvolta qualcuno dice: ma questi bordocampisti, come li chiama Pardo in gergo, no? Fanno un po' dormire. Sapete, no? Si dice. Ma chi lo dice? Allora, quelle sono le macchine della Formula 1. Non è vero, ve lo dico io. Allora, da chi va Nosotti a farsi curare la malattia d'apnea da russate? Da mio fratello, che è medico pneumologo. Allora, se avete Nosotti in diretta, chiedetegli se è vero o non è vero. Adesso. Andato a farsi montare l'apparecchio, perché quando gli danno la linea dagli spalti, vedendo giocare il Milan di Mihajlovic, Nosotti si è addormentato. Veccio. È vero, Nosotti, è vero. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Un controllino con il mio compagno di squadra. È un controllino a vedere De Jong che dirige il gioco lì in mezzo al campo. Voglio dire, è una roba tipo Felipe Melo dell'Inter, un incubo, hai capito? No, vabbè, Felipe Melo è già diventato un incubo, ma fa il bravo, era la faccia del Milan, dell'Inter, era il nuovo uomo simbolo, il nuovo guerriero. Ma scusate, Pardo è uno che ha visto giocare Schiaffino, allora chiedete a Pardo. Ci può paragonare? Non proprio. Schiaffino, Pardo, tu hai una certa età. Ci può paragonare, voglio dire, Schiaffino, Dino Sani, ecco, dato che è uscito il libro del tratto che cita Dino Sani. Dino Sani, lo possiamo paragonare a Felipe Melo o a De Jong? Ma chiedete a Nosotti, che si addormenta a tutti gli allenamenti di Sinisa, diciamolo. Noso, dillo, va, da, su, dillo, su. No, diciamo che gli allenamenti di Sinisa sono intensi e importanti. Diciamo che De Jong nel centrocampo a tre fa fatica, e davanti alla difesa e anche a fare una mezzala che si intende. Nosotti, io ti pago a nome di tutti gli italiani numerosissimi che seguono la trasmissione di Gente Pardo, se tu adesso mi fai in diretta la catena di destra e la catena di sinistra. Se te la faccio io la catena di destra, la catena di sinistra, le fasce laterali, il football, il campionato con Villavecchi, vecchio, allora. Non è possibile, siete meravigliosi. Allora, la catena di destra, Calabria. Non so con chi sto parlando. Calabria. Ma che... Cioè, nel senso, tu stai parlando con me, io le voci di dentro, io non so. Senti, ma a Formigine, c'è rivalità nei confronti del Carpi oppure c'è amicizia? Stamattina c'è scoramento per l'esonero di Castori. Soprattutto sei stato un grande protagonista della festa del Carpi, cioè solo tre mesi fa era il paradiso e adesso San Pietro che aveva le chiavi gli hanno detto no, metti giù le chiavi, ciao. È vero, era lì proprio sulla porta del paradiso, cos'era? 28 aprile eravamo, sì, contro il Bari, 0-0. E no, devo dire che sì, è stato fortunato per il calendario che ho trovato, è stato sfortunato per tante situazioni, la squadra è stata completamente stravolta, è cambiato il direttore sportivo, sono cambiate anche appunto le idee, a volte sai in questi casi cosa fai? Mantieni il gruppo che ti ha portato su, lo mantieni, giochi sull'entusiasmo, su un sistema di gioco riconosciuto, riconoscibile, che ti dà certezze, ti toglie le paure di fronte ai grandi impegni dell'inizio del calendario come quello di Serie A, e invece hanno cambiato tanto, e lui si trovato di fare. Io ho visto la partita contro la Fiorentina, ho visto la partita con l'Inter, ho fatto Calvi-Napoli, sapevo che c'era forse l'intenzione dopo i risultati eccetera di cambiare qualcosa, ma non credevo che la situazione precipitasse così. Peccato, anche perché Castori meritava forse di provarci ancora un po' di più, però non siamo dentro le cose, sai, anche nei rapporti interpersonali col presidente, o meglio col patron, Bonaccini, con Sugliano, ecco, forse a volte è una questione di fiducia, e allora ci sono delle pieghe di queste situazioni che noi non conosciamo. Dal di fuori pensavo che un po' più di tempo gli potesse essere dato. No, diciamo una cosa a nome anche di Pardo, sì. Che durante Carpi-Napoli, perché mio fratello pneumologo aveva sottoposto il noso al test, Nosotti si addormentò rovinosamente al 28esimo del primo tempo e venne svegliato giusto per il collegamento con l'Adamico. Allora qui a Radio 24 diciamo la verità, Nosotti tra il Milan e il Carpi dorme in continuazione. Cioè, queste cose è Pardo che doveva essere là in Bielorussia, sta qui a cazzeggiare con noi, ma io mi domando questa professione, io sto andando in pensione, ma dove finirà questo mestiere? Tutti stasera dicono Pardo è là, e invece Pardo è qui con gente che fa queste cose, mi sembra che era il cuore di Vettel, terzi e quarti, vi accontentate di poco, che vi devo dire? Io non lo so. Beh, sempre meglio che Alonso, mio caro Turrini. Ragazzi, Alonso. Sempre diciamo meglio che Alonso. Allora, che ti faccio risentire. Aspetta, che te lo faccio risentire a beneficio di tutto il mondo. Alonso. Ah, durissimo. Motore di GP2. Mamma mia. Ho capito questo. E qui dimostra la frustrazione che ha Alonso. In casa della Honda, motore di GP2. Allora, ciao, quest'uomo è veramente una cosa, devo dire, al di là del bene e del male, come Mr. B, quello che deve comprare il 48% del Milan pagandolo più del 100% del Barcellona. Incomprensibile. Cioè, aveva 12 Gran Premi a disposizione, per dire giustamente che insomma il motore della Honda è un tosaerba, no? Una roba da falciatrice. Che occasione sceglie per dirlo in Mondo Visione? Quando va a casa sua? Mentre Nosotti dormiva, perché io prima è partito alle 7. Le prove dei test, Nosotti stava dormendo. Come sempre, anche quando gioca il Milan. Ma voglio dire, in Giappone, davanti a tutti gli discendenti della famiglia di Soichiro Honda, è come se l'avesse fatto Maranello in un test. D'altronde, questo, se vi ricordate, 2 anni fa, Gran Premio d'Italia, a Monza, disse polemicamente, rivolto ai suoi ingegneri e meccanici: ma allora siete proprio scemi. Il problema di Fernando è molto semplice, è un grandissimo pilota, come Pardo condurre tiki-taka, però è uno che nelle difficoltà, invece di fare gruppo, come Pardo attacca sempre il regista lì d'Italia 1, lui attacca sempre quelli che sono i suoi, diciamo, sì, così, sì, diretti, no, collaboratori. No, non è in grado di creare una empatia che aiuti il gruppo nei momenti difficili, e per questo è stata una fortuna, lo dico in maniera molto serena, che abbia deciso di lasciare la Ferrari. Vettel forse come pilota al volante non è più forte di Fernando, ma un altro carattere. Domenica, se avete sentito, è arrivato terzo. Ho detto, scusate ragazzi, di più non potevo fare. L'approccio è completamente diverso. Detto questo, io vi ringrazio perché quando sento insieme Pardo, Genta e Nosotti mi vengono in mente i Bee Gees, Maurice Robin e Barry Gibb. Voi siete una cosa meravigliosa. Se mi potete sparare Living Eyes dei Bee Gees 1981, che io ero innamorato, ero al liceo di una che non me la dava mai. Chi è? Come si chiama? Si chiamava Cristiana. Io sarei felicissimo. Cristiana, vabbè. Sarebbe... Ma diamo... cognome, che no, perché era? Magari sono... Che sezione no, era? L'album si chiama Living Eyes. Stato trovato, non è che no, Nosotti no, chiede... è l'album, proprio il titolo, è il title track. No, non hai capito, Pardo. Leo, non hai capito. Marco Nosotti ha chiesto in che sezione era, visto che eravate nella stessa scuola. No, lo sai che sezione era. Io ero in C e lui, se non ricordo male, era in E. Com'era Noso, te la ricordi? Ma era una bella figliola che aveva lì. Una bella figliola, non posso dire, ma sai perché lui mi massacrava il lunedì, oltre a passarmi qualche indicazione di filosofia di greco, mi continuava a dire come un tormentone, e poi è diventato un mantra: sei scarso, fai un altro lavoro, che come portiere sei scarso. Lo ricordo ancora. No, io per la verità, ricordiamo la massima, non è, di... non è proprio corretto, cercate il pezzo, ma però voglio dirvi che io dicevo al Noso: stai sveglio, perché sapevo che poi, come bordo campista, siccome lui dormiva sempre sul trenino da Formigine a Modena, gli diceva non dormire, perché poi se ti assumono a Sky tra 40 anni e tu sei lì, De Jong fa una grande giocata e stai russando. Beh, possiamo dire, Noso mi perdonerà, possiamo fare un attimo the greatest hits dei più grandi treni persi, delle più grandi nosate di questi anni? Che cosa abbiamo? Abbiamo quella volta che ti sei addormentato, hai preso il treno, dovevi andare a Modena, da Milano sei andato Falconara che è prima di Ancona, dici non sono arrivato a Ancona, no, ma Ancona devi andarci se vuoi tornare poi indietro. Volte mi capitava di addormentarmi a Lodi, di svegliarmi e di accorgermi che arrivavo a Modena e non trovavo la macchina. Oddio, mi ha rubato la macchina, per forza la Milano, era andato a Milano in macchina. Capitava così. Sì, e quella volta non sapevi se ce l'avevi. Un giorno testuale mi dice: non ricordo se ho la macchina all'aeroporto di Pisa o alla stazione di Bologna. È una cosa proprio straordinaria. Abbiamo il brano dei Bee Gees. Così lì, salutiamo tutti e due, Leo Torrini e Marco Nosotti. Ce l'avete o no? Sì, vi saluto e soprattutto Cristiana. Io e Pardo, quanti anni avrà adesso Cristiana? Quanti ne ha? Ne ho 55 io, fai tu, caro Pardo, tu sei della nuova generazione, tu e Gente siete il meglio del giornalismo emergente. Io e Nosotti ormai siamo qui, possiamo scrivere dei testi di memoria, hai capito? Fare delle cose, ma no, ma trovate lì di Nice, no, ma morre le uova è la roba ancora precedente, c'era troppo giovani. A Radio 24 sono bravi, se vogliono trovano Living Eyes. Ma ce l'abbiamo, ciao a tutti. Ciao Leo Torrini, ciao Marco Nosotti. Sì che ce l'abbiamo. Epic fail del professor De Luca. Epic fail, non c'è. C'è soltanto senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo, Grandissimo brano, grandissimo, una canzone straordinaria. Che come siamo messi? Che canzone è? Sound check con Gigi Telesforo. Siamo messi con gli ascoltatori che aspettano da molto. 800 24 00 24, e sono Roberto e Francesco. Roberto da Brescia, buongiorno, sto ancora riprendendomi dall'immagine di Nosotti che si appidola alla vita di Young. Fantastico. È proprio così. È un piacere poter parlare con voi. Una domanda su Allegri a degli addetti ai lavori, cioè a dei giornalisti. A me sembra che la peculiarità di un allenatore di una grande squadra sia soprattutto quella, più che di essere un grande tecnico, di essere un grande gestore, un grande motivatore. Ho notato nelle ultime due interviste post partita a caldo, dopo Juve Frosinone e dopo la partita col Napoli, Allegri nervosissimo, molto nervoso, molto incapace a gestire la pressione che chiaramente era dovuta in quel momento. E quindi questo lo ritengo un punto molto molto importante. Volevo sapere il vostro parere, anche perché io almeno la penso così. Se tu ti comporti in una certa maniera con la stampa, non essendo disponibile, essendo troppo arrogante, poi potrebbe rivelarsi anche un boomerang. Sì, mi vengono in mente, Lippi e Cappello. Non è che intervistare Lippi e Cappello dopo le sconfitte, anzi, fosse qualcosa di semplice, Certe volte anche dopo le vittorie, diciamo. Guarda, io sinceramente, per non parlare di Mourinho, io ti dico sinceramente che vedo un allenatore nervoso, come sono nervosi tutti quando perdono, quando le cose vanno particolarmente male. Insomma, non vedo cose così clamorose nel comportamento di Allegri. Quello che vedo è una squadra in difficoltà, insomma, e questo è indiscutibile, lo sa lui per primo. La Juve non è programmata per andar male, non è programmata per perdere, quindi questo è veramente indiscutibile. Ma poi sul resto, francamente, mi sembra, anzi, a me Allegri mi sembra anche uno dei più tranquilli, pure nei momenti Allegri è uno dei più tranquilli, pure nei momenti difficili. Allegri è molto piacevole, è molto equilibrato, anche quando le cose non vanno benissimo. Vi ricorderete che con tutto l'affetto e tutta l'ammirazione per Conte, c'era questa bellissima teoria della Juve che era stata calmata, no? Di un allenatore più morbido, anche dei rapporti con i giocatori, che li aveva fatti respirare di più dopo gli anni della grande fatica con Conte, e venivano sottolineate queste qualità di Allegri. Quindi, come sempre nella vita, lo dico una volta a puntata, il calcio è liquido. Adesso chiaramente siamo in un momento particolare, si può anche dire che Allegri al secondo anno possa avere delle difficoltà, perché è la storia che lo dice, però ci sono delle differenze, Pierluigi. Sì, di uno che ha vinto il campionato, che ha vinto due scudetti in due club diversi in Italia, non sono molti, ecco. No, certo, non dimentichiamo che l'anno scorso è andato a un passo dal triplete, perché campionato, Coppa Italia, finale di Champions League. Però ci sono delle differenze profonde tra il secondo anno di Allegri al Milan e il secondo anno di Allegri alla Juventus, perché il Milan era praticamente lo stesso che aveva vinto lo scudetto, era la squadra da tutti pronosticata per il bis. E possiamo tranquillamente dire che al di là dei 1000 episodi, quell'anno, esatto, lo scudetto lo perse. E non parlo solo degli arbitri, esatto. Parlo soprattutto degli infortuni, che furono una roba clamorosa. Sì. Alcuni infortuni, Cassano e Gattuso, assolutamente slegati da qualsiasi dinamica logica calcistica. Ecco. Logica calcistica. Quindi il secondo anno di Allegri al Milan fu una cosa di quel tipo, il secondo anno di Allegri alla Juventus è un anno di rifondazione e di ricostruzione di una squadra. Quindi sono due cose differenti. Francesco Palermo. Sì, buongiorno, vi ringrazio di avermi richiamato. Volevo parlare, se mi posso permettere, di Balotelli, anche perché lo ritengo, dopo Totti, il miglior giocatore che c'è in questo momento in Italia. Dopo Totti, chiaramente. Perché dico questo? Perché secondo me lui dovrebbe imitare un pochettino Vasquez, che avete visto domenica quel bruttissimo fallo, se n'è stato zitto e muto e ha continuato a giocare. Se lui riesce, secondo il mio modesto parere, ad essere come Vasquez, secondo me diventerà il più forte giocatore d'Italia e anche d'Europa e forse anche del mondo. Se mi posso permettere. Ma sono diversi gli aspetti di Balotelli che vanno limati, non solo. Sì, però è un giovane ancora, lo può fare tranquillamente. 25 anni. Volevo dire una cosa, se mi posso permettere, l'attacco dell'Italia per i campionati europei. Se mi posso permettere, Ma lei si può permettere. Berardi, Vasquez, Balotelli, Rossi, se si riprende dall'infortunio. Se lo può permettere. Come la vedete? Se lo può permettere. Berardi, Vasquez, Balotelli, Rossi, ne manca magari uno. Possiamo fare Zazza o Pelle. Sì, un attaccante di quelli. Anche se Rossi sta facendo molta fatica. Sta facendo molta fatica Rossi, a rientrare. Rossi, oltre a fare molta fatica, c'è sempre, con tutto l'affetto che proviamo, c'è sempre quella grande incognita dal punto di vista fisico che. È inutile, possiamo far finta che non esista, ma purtroppo esiste. Certo. Quando lo vediamo giocare 15 partite di fila, magari per 90 minuti, possiamo provare a pensare che sia tutto. Esatto, ad essere speranzosi. Al momento, prima leggevo di sfuggito una notizia, si è rimodulato il contratto, cioè ha rinunciato a una parte dell'ingaggio fisso, spalmandolo invece su gol e presenze. Quindi questo è un gesto nei confronti della Fiorentina, però è chiaro che rimane comunque un giocatore. È veramente eccezionale da quello che si vede e che mi dicono, insomma, ragazzo veramente di altissimo livello, al di là della polemica con Prandelli, che poi alla fine è stata dovuta tempesta in un bicchiere d'acqua, dai, quella sì, dovuta alla rabbia, al rodimento, ci sta. Guido Milano, buongiorno, saluto tutti e due. Volevo fare una domanda a Luigi Pardo. premetto che sono un tifoso milanista e volevo anche dire una cosa. Tutto questo entusiasmo sull'Inter, siccome io seguo il calcio da tanti anni e sono stato dentro l'ambiente per tanti anni, tolto il signor Luigi Pardo, tutti gli altri giornalisti sono tutti stati esuberanti con l'Inter, l'hanno fatta acclamata in una maniera pazzesca. Io mi domando, ma voi addetti ai lavori o i vostri colleghi, ma le hanno viste le partite dell'Inter? Come ha vinto queste partite l'Inter? Sì, sì. Allora, Guido, un attimo. Allora, Luigi Pardo ha 30 secondi per la risposta. Sì, poi io non chiudiamo. So se sono stato superato o no. Credo in assoluto che il risultato faccia opinione, sempre e comunque. Poi le partite le vediamo, io sono d'accordo con lei che non è che mi abbia fatto impazzire l'Inter, quindi aspettavo qualche verifica ulteriore. Non penso che sia una squadra in difficoltà assoluta, penso sia una buona squadra, molto migliorata rispetto al passato, e sono curioso di vedere come va. Poi se mi chiede la squadra più spettacolare del campionato, per ora per me è Napoli e non è l'Inter. Grazie Pier. Grazie della compagnia. Ci sentiamo domani. Domani siamo a Bologna, Cesaie, Bologna, Cesaie. Per quanto mi riguarda, trasferta per Pardo invece a Torino, altra destinazione, a vedere e a commentare soprattutto Juventus Siviglia. Ci becchiamo al telefono, come ci dicono becchiamo. Quelli giovani. Sarà un successo. Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, Giovanni Melchiori, ciao a tutti. È finita! Se mi posso permettere.